24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Gran Bretagna, scandalo intercettazioni, il premier Cameron dice il paese è sotto shock, è stato arrestato il suo portavoce e domani il News of the World chiude. Negative tutte le borse europee, sotto scacco i mercati italiani, Milano chiude a meno 3,47%. TAV in Val di Susa, continua la protesta e l'Europa stringe i cordoni della borsa. Bentrovati da Roberta Pellegatta, un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura andiamo a Londra per lo scandalo intercettazioni. Domani sarà l'ultimo numero per lo storico tabloid inglese News of the World. Practices at the News of the World and contaminated the reputation of British journalism. In questa storia è coinvolta l'intera reputazione del giornalismo britannico, lo dice Ed Miliband dei laburisti. Il rischio della strumentalizzazione politica è alto, ma la considerazione di Miliband è vera. Se sarà dimostrato che nella redazione del tabloid News of the World si intercettava chiunque avesse una storia appetibile. La ragazza violentata, il padre della bimba scomparsa, non più dunque solo calciatori e principi. Però non chiude per vergogna il News of the World, 3 milioni di copie vendute, chiude per che Murdoch ha capito che la pubblicità sarebbe saltata e ha preferito fare il buon gesto, a dare l'annuncio James Murdoch, il figlio. Arrestati per ora Andy Carlson, ex vice direttore dal 2003 al 2007 del tabloid ed ex portavoce di David Cameron, e Clive Goodman, ex corrispondente della famiglia reale per il News of the World, oggi al Daily Star, giornale nel quale è scattata una perquisizione. Il primo ministro Cameron ha chiesto l'apertura di un'inchiesta di indipendenti che ripulisca la stampa inglese. He carried out his job well. He wasn't criticized the way he did his job. He resigned all over again. Voglio che una seconda inchiesta cominci il più presto possibile, idealmente subito, quest'estate. Questa indagine dovrebbe essere condotta da un comitato credibile con membri provenienti da diversi background che abbiano il pieno sostegno, rispetto e fiducia del pubblico. Dovrebbero essere realmente indipendenti con l'intento di cercare la verità e ripulire la stampa. Una rabbia profonda la stanno vivendo i giornalisti del News of the World, che tra pochi giorni saranno senza lavoro e che hanno letteralmente inseguito la direttrice Rebecca Brooks tentando di linciarla. Un epilogo più triste è impossibile trovarlo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E le borse europee chiudono in ribasso, Parigi termina a meno 1,58%, Francoforte chiude sul meno 0,92% e Londra perde l'1%, ma la peggiore è Milano, dove il FTSE MIB incassa un pesante meno 3,47%. Il dato sulla disoccupazione statunitense è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e se fino al primo pomeriggio le piazze europee, ad eccezione di Milano, si erano mantenute in equilibrio, benché nervose per la crisi del debito e le ultime mosse delle agenzie di rating, dopo il dato, peggiore delle attese, hanno reagito virando tutte in territorio negativo. Milano la peggiore fin dalle prime battute, ha accentuato la flessione chiudendo con un calo del 3,5%. Piazza Affari è rimasta schiacciata dalle pressioni, legate soprattutto al complicarsi del clima politico, non solo le difficoltà che potrebbe incontrare la manovra nel passaggio parlamentare, ma anche i nuovi sviluppi dell'indagine sulla P4. Sotto pressione i titoli di Stato, ritoccato ancora al rialzo lo spread tra BTP e bond tedeschi. Il differenziale di rendimento è arrivato a 247 punti base. Segno che nel mirino c'è il debito italiano, con la paura di un contagio della crisi debitoria che ha coinvolto Grecia, Irlanda e Portogallo. A Milano i più colpiti sono stati i titoli bancari, monitorati dalla Consob. A fine seduta il peggiore è Unicredit, con una perdita di poco meno di 8 punti percentuali. C'è preoccupazione per gli esiti degli stress test sulle banche. Per rassicurare è intervenuto anche Draghi. Le banche italiane sono solide, ha detto il governatore di Banca Italia. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sessione congiunta a Varsavia tra Commissione europea e governo polacco. Il premier Donald Tusk ha accolto il presidente della Commissione Barroso in uno dei primi atti della presidenza di turno dell'Unione europea. La Polonia ha assunto l'incarico semestrale il 1 luglio dal presidente uscente, il premier ungherese Viktor Orban. La risposta alla crisi è più Europa, ha dichiarato il primo ministro durante la presentazione del programma della presidenza polacca. Principale obiettivo di Varsavia è rilanciare la crescita economica, mentre i 27 sono le con la crisi sul debito. Barroso ha rinnovato il pieno appoggio della Commissione al Paese nel cercare un accordo sul pacchetto di governance economica. TAV in Val Susa, confermati fermi, la protesta continua con una fiaccolata a Torino, ma intanto l'Europa stringe i cordoni della borsa. Il taglio sarà deciso in autunno, ma arriverà quasi certamente. Il commissario europeo ai trasporti, Siim Kallas, ha annunciato che l'Europa ridurrà ulteriormente i 671 milioni destinati a coprire un terzo dei 2 miliardi di spesa per il tunnel internazionale del TAV in Valsusa, a meno di un'improbabile e improvvisa accelerazione che per ora, con il solo cantiere della Maddalena avviato, sembra un miraggio. La cifra stanziata dall'Unione non va accantonata, ma spesa effettivamente entro il 2015 e questa ora pare un'eventualità davvero remota. Bruxelles non è stata soddisfatta neanche dalle indicazioni giunte dalla Commissione Intergovernativa Italia-Francia e si prepara una riduzione più corposa rispetto al taglio da 9 milioni deciso a fine 2010, quando il termine per l'utilizzo dei fondi era stato spostato dal 2013 al 2015. Il commissario italiano al TAV, Mario Virano, ieri ha ribadito che quasi tutto è pronto e il taglio non è scontato, ma oltre ai problemi in valle, il progetto preliminare è in ritardo di 6 mesi e manca il soggetto abilitato a fare gli appalti. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra i giovani c'è più sensibilità e consapevolezza nei confronti dell'Unione Europea. Così il Presidente della Repubblica Italiano. Sentiamo. I giovani e l'Europa sono ormai gli unici argomenti in grado di entusiasmarmi alla mia età. Lo ha detto il capo dello Stato Giorgio Napolitano durante un dibattito a Como con il presidente della Repubblica Federale di Germania, Christian Wulff, davanti ad una platea di 30 studenti e ricercatori italiani e tedeschi. Il presidente della Repubblica Italiana ha osservato che fra i giovani c'è assai più sensibilità e consapevolezza del ruolo dell'Unione Europea. Abbiamo problemi seri di cui essere preoccupati per ciò che l'Europa non riesce a fare, ma non ci sono alternative. Quello già compiuto, ha detto il presidente, è stato un percorso di straordinario successo. Quanto all'allargamento dell'Unione da 15 a 27 Paesi membri, Giorgio Napolitano ha aggiunto che non si poteva chiudere la porta in faccia ai Paesi dell'Europa orientale. Credo che fosse impossibile, ha proseguito, dire no, anche se il processo comportava dei rischi. Allo stesso modo rischi analoghi si pongono oggi, ha continuato Napolitano, nel momento in cui le istituzioni non vengono adeguate ad una membership più ampia. E siamo allo sport, il ciclismo del Tour de France. Secondo copione, Mark Cavendish, e secondo Alessandro Petacchi. Non c'è da fare festa, ma è già qualcosa. Il campione spezzino, che sta attraversando un momento personale molto delicato, per la prima volta oggi si è buttato davvero nella mischia della volata e ha ottenuto un confortante secondo posto alle spalle del Man of Man, dell'uomo dell'isola di Man. Per lui seconda vittoria in questo tour dopo quello ottenuto a Caffrelle, la 17ª in carriera. Per il resto tappa piatta, come sempre, condizionata dalle cadute che hanno fatto la differenza. Il primo ad issare bandiera bianca è stato Tom Boonen, caduto l'altro ieri e oggi costretto al ritiro dopo pochi chilometri. Poi a 38 chilometri dal traguardo la caduta che ha spezzato in due il gruppo. Fuori gioco tanti velocisti come Uran, Čolek, Farrar e Boasenhagen, ma a farne le spese più grave è stato il campione d'Inghilterra Brady Wiggins, capitano del Team Sky, costretto al ritiro. Staccati anche Chris Horner di oltre 12 minuti e Levi Leipheimer di 3, e per questo quasi sicuramente devono dire addio ai sogni di gloria. Addio maillot jaune, addio maglia gialla. Pier Augusto Stadi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Châteauroux. E parliamo di calcio adesso con l'allenatore brasiliano Leonardo, che Milano a quanto pare non contende a Parigi. Lui mi ha visto come un figlio e mi ha trattato come un padre. Chiamatelo pure il meraviglioso mondo di Leonardo. Un mondo pallonaro fatto di calcio bailado e offensivo, dove difendere è uno stress inutile, dove cuore e amore sono gli imperativi categorici e dove un presidente, nel caso Massimo Moratti, fa una chiacchierata al telefono col suo allenatore, lo stesso Leonardo, che gli dice che il Paris Saint-Germain lo vorrebbe portar via da Milano, destinazione Parigi. A quel punto Moratti avrebbe ascoltato e detto al brasiliano: «Vai pure, è davvero una bella esperienza». E i maliziosi saremmo noi che, incapaci di percepire l'amore universale che regna nel globo terracqueo, abbiamo subito pensato al vile tradimento. Io non l'ho mai trattato con Paris Saint-Germain fino all'altro ieri, a 3 giorni fa, però sembrava quasi nella testa delle persone che la cosa era impossibile, che ci fosse stato un tradimento o un non so che cosa di uno contro l'altro. Leonardo a oggi ancora non sa se andrà al Paris Saint-Germain, dice lui. Staremo a vedere, e ci scusi il simpatico brasiliano se proviamo a mettergli un ultimo dubbio nella testa. Ha mai pensato che, se davvero è stato proprio Moratti a spingerlo sul volo verso Parigi, un papà tanto generoso non ne avesse avuto già abbastanza del suo amato figliolo allenatore? Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Mauro De Angeli in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.